favore, un espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore, espresso macchiato, forne, oh, oh. Espresso macchiato. Macchiato, macchiato, por favore, por favore, espresso macchiato, forne, oh. Espresso macchiato.